E indovinate con che città siamo collegati? Napoli. Sì, esattamente, con Alessandro Di Rienzo che è al telefono con noi. Buon pomeriggio. Tiralo su, però. Ecco qua, ci sentiamo. Ci senti, Alessandro? Io sento tutto, voi mi sentite? Sì, ti sentiamo benissimo. Allora, situazione a Napoli. Primo turno si profila la vittoria di Gaetano Manfredi, non una grande affluenza alle urne, ma comunque migliore rispetto a quella di Roma, ad esempio, sopra il 50%. A Napoli si attesta su un 54%, Gaetano Manfredi eletto al primo turno con 13 liste. Queste 13 liste vanno viste al loro interno. Napoli, come la Calabria, è uno dei due territori dove si sperimenta l'alleanza PD 5 Stelle e i partiti vengono premiati. Però Napoli ha anche qualcosa in più, perché come quarta forza della coalizione che vede 13 liste si vede una lista di traffici di Forza Italia che ha abbracciato Manfredi, Azzurri Noi Sud e Napoli Viva, che sono tutti fuoriusciti da Forza Italia, che nella precedente consigliatura erano all'opposizione di De Magistris eletti nel centrodestra. Adesso sono la quarta forza, dopo la prima civica, dopo il PD, dopo il Movimento 5 Stelle, della coalizione, sopra i Verdi, sopra la lista di De Luca e sopra le sinistre che hanno supportato Manfredi, quella dell'area di Speranza Bersani per intenderci. Quindi una coalizione grandissima che vede due liste di destra per un centrodestra che invece raccoglie molto molto poco, un centrodestra orfano della Lega, viva Dio, nel senso che qui la Lega non è riuscita a presentare la propria lista per mancanza di firme, per non aver ottemperato a tutto il regolamento burocratico. Era una lista già un po' ammacchiata, qui ancora non hanno il coraggio di presentarsi con il simbolo della Lega, quindi c'era prima Napoli, però non è riuscito a presentare i propri candidati. A destra non vanno bene le civiche, regge Forza Italia, secondo partito il partito della Meloni, ma parliamo comunque di cifre abbastanza irrisorie, intorno al 5%. Magra figura di Alessandra Clemente, che è l'assessore uscente della Giusta De Magistris, un po' l'erede di quell'esperienza politica, ma buona parte degli assessori, buona parte dei consiglieri si sono candidati anche loro con Manfredi, quindi diciamo quel che rimane di quell'esperienza politica è intorno al 5%. E poi Bassolino, che si aspettava un exploit, però si era visto un elettorato molto in là con l'età, ai suoi incontri, ai suoi comizi, intorno al 7,5-8%, probabilmente salirà, ma salirà di poco. Questo è il quadro a Napoli. Suonano le campane per Manfredi, sento. No, sono le nostre queste. No, sono le nostre. Sì, perché rientra dalla allora finestra. Allora per Lepore che suonano. Però appunto tu parlavi di Alessandra Clemente, è sostenuta anche da Potere al Popolo, no? Sì, Potere al Popolo che è nata a Napoli. Mo diciamo qui abbiamo scrutinati solo 22 seggi su 884, il dato ufficiale. Però sembra il Potere al Popolo, con questi pochi seggi, di non aver raggiunto la soglia desiderata, che era quella, insomma, era data intorno al 3,5%, ma loro con il 2% insomma sarebbero felici di confermare lo stesso numero di voti delle regionali passate. Fatto sta che al momento bisogna vedere questi seggi da dove vengono, perché il voto di Potere al Popolo è molto forte al centro, è molto forte in alcune periferie, ma in altro è del tutto assente, quindi i conti su quella storia politica si faranno probabilmente a fine giornata o domani. Ecco, tu dicevi prima appunto della questa ampia coalizione a sostegno di Manfredi, che ha portato, insomma, già si può dire, insomma, al primo turno. Io pensavo alla componente Movimento 5 Stelle, tu mi dici che c'è anche una componente di Forza Italia. È una coalizione molto strana. A Napoli forse altrove il voto è un po' più politicizzato. A Napoli c'è, insomma, la corsa a cercare dei candidati, dei numerosi candidati uscenti, aspiranti, di cercare l'elezione a qualsiasi costo, e allora chi interpreta una forza centripeta, diciamo, prende anche tanti candidati, e la somma fa il totale, diceva Totò. Vediamo 13 liste in assoluto contro le 8 di Maresca, contro le 4 di Bassolino, contro 3 della Clemente. Di gran lunga il doppio rispetto al secondo competitore, il triplo rispetto al terzo, il quadruplo rispetto al quarto competitore. Queste liste vanno, io le vedrei un attimo, al di là del PD, che insomma una forza strutturata in città, ridimensionata nelle precedenti amministrative, in due amministrative fa, dove non arrivò nemmeno al ballottaggio per entrambi gli appuntamenti amministrativi. Comunque ben radicato in città, esprime un ceto politico anche a livello nazionale, pensiamo all'ex ministro attuale sottosegretario Amendola, sempre molto di rilievo sullo scenario importante. I movimenti 5 Stelle si sono incubati in un certo senso a Napoli, Fico e Di Maio qui da cui vengono, e soprattutto Conte è venuto qualcosa come 5 volte, probabilmente ha avuto un presenzialismo maggiore a Napoli a rivendicare un laboratorio di sua appartenenza che è a Roma con la Raggi, ed è adesso, per carità, ancora pochi seggi, noi secondo me domani potremo dire qualcosa in più, però è terza forza della coalizione dopo la Lista Civica e dopo il PD, quarta sono gli Azzurri con Manfredi che è ex Forza Italia, e vi dirò che non è l'unica lista di transfughi da Forza Italia, perché se andate a vedere sul sito del Viminale c'è anche Moderati con Manfredi, tenuti da Mimmo Palmieri, che era di quella corrente di socialisti che dal 90 in poi hanno preso casa nel centro-destra. E come commentare il risultato di Bassolino, che pure a Napoli ha rappresentato un'epoca, anzi più di un'epoca forse? Ma era un po' il ritrovo di Vogliamo i Colonnelli, in un certo senso. Di fronte alla verve enorme di Antonio Bassolino, che comunque parla un lessico politico superiore rispetto alla media degli altri candidati, soprattutto rispetto alla media del ceto politico attuale, però è sembrata un'operazione nostalgia che si attesta sul 7%, adesso secondo me può conquistare ancora qualcosa, cioè alla fine dei conti potrà rappresentare qualche decimale o qualche punto percentuale in più, però non più di un'operazione nostalgia, insomma per sfondare ancora troppo forte il ricordo dei rifiuti 10 anni fa. Diciamo, la foto, la cartolina di Napoli adesso e quella di 10 anni fa sono cartoline completamente diverse. 10 anni fa la responsabilità era di Bassolino, che non era solo una questione di cattiva amministrazione, era una questione di cattiva gestione del comparto regionale, dei contratti con l'Intregiro, del far entrare Romeo e la privatizzazione di servizi in ogni antro dei servizi pubblici. Insomma, era un qualcosa che, al di là di una retorica di nostalgia, non ha fatto sì che prendesse, al di là secondo me, di un voto da sessantenne a salire, e più da sessantenne a salire anche da persone ancora legate con il cordone ombelicale al PD, ma che hanno la nostalgia di un partito di sinistra pesante, ben radicato nelle elezioni, con le feste dell'unità e con l'immaginario lì, che è comunque un ceto residuale. Certo, grazie mille Alessandro per questa fotografia da Napoli, e insomma buona serata.